l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa in diretta dagli studi di Radio 24, lo spazio settimanale dedicato alle storie, alle persone, all'attualità, a nostro modo, dell'Europa. Tragiche notizie stanno arrivando dall'Afghanistan, gli spazi informativi continueranno all'interno del GR, ma siamo qua, insomma, se ci sono breaking news lasceremo spazio ai colleghi del GR. L'Europa, in questo programma, in collaborazione con Euronet, questa rete, questa network di radio europee per avere tante voci, tanti punti di vista diversi. Oggi entreremo nel cuore dell'Europa, andremo a Bruxelles proprio grazie ad Euronet, ma andremo anche ai confini dell'Europa, andremo in Lapponia, nella Lapponia svedese, ma a pochi metri dalla Norvegia, con una storia. Entriamo quindi in questo clima. Da scoprire vengo ogni novembre, io posso avere in la me cuido, io mi sforando di dare in me. Io vo' poverti il dario pu, te io mi sistero mu, stelle ti temi. Questa è una musica tradizionale della comunità Sami, un popolo nomade. Siamo nella regione delle Heyerdahlen, sono 11 comunità Sami, sono 45.000 renne e tra di loro vive anche un'italiana, si chiama, già sorride, diamo il benvenuto a Luisa Trojanis che è qua con me in studio. Ciao Luisa. Ciao, buongiorno Federico, ciao. Sarà strano per te, abituata a vivere in Lapponia, trovarti a Milano. Sì, difficilissimo, infatti per trovare parcheggio per la mia slitta è stato un po' un problema stamattina, comunque ho trovato. L'altra Europa, cerchiamo di raccontare storie anche che provengono dall'Europa, e la tua è una storia molto particolare perché sì, vivi in questa regione sconosciuta, non la conoscevo prima di averti incontrata. Collocati, dove sei di fatto? Dunque sì, io mi trovo appunto nella contea della Heyerdahlen, che si trova al confine norvegese, appena 15-20 km dal confine, ed è sotto il circolo polare artico, esattamente al 62° parallelo mi trovo. E sì, è un posto straordinario e non saprei come definirlo, è un posto di grande solitudine anche, è un posto che veramente ti prende il cuore e l'anima in tutti i sensi, perché veramente sei fuori da ogni, come dire, da ogni possibile appiglio che ti possa in qualche modo riportare alle città, alle grandi città, insomma. Lì è un vivere diverso, è un sentire diverso, e quindi vieni catapultato in questa realtà che quasi non è realtà, quindi sei al confine e sempre con, non sai mai bene se stai sognando o se stai veramente vivendo quella particolare storia. E io sono lì dal 2004. Mm-hmm. Tu fai la tour operator, ma adesso andremo a scoprire anche come sei arrivata là, soprattutto in questi giorni, in queste settimane, diciamo, che si sta leggendo, scrivendo tantissimo degli italiani in fuga, non solo cervelli ma anche talenti. Io stesso ho pubblicato un libro da poco, Sergio Nava, Giovani Talenti, e settimanalmente racconta di queste storie. Repubblica in questi giorni sta facendo un sondaggio e ha raccolto più di 20.000 tracce di italiani all'estero. Ecco, tu sei una di queste, sei un cervello, un talento, un'eccentrica in fuga? No, mi ritengo normalissima, anzi proprio questo che tengo a sottolineare, nel senso che, come si usa a dire, spesso noi ci poniamo dei limiti e sono dei limiti che non ci permettono di guardare oltre, di fare dei cambiamenti. E io ad esempio non ho un passato di esperienze di montagna, non ho nemmeno genitori comunque che erano alpinisti, eccetera eccetera. E mi sono ritrovata in questa realtà così, senza un piano preciso, senza aver stabilito delle cose. E mi sono ritrovata in seguito a dei consigli da parte di amici, mi ha detto cioè, vieni qua a vedere questa zona, quindi sono andata dapprima in vacanza e poi ci sono rimasta. E da lì poi ho fatto esperienze. E insomma, è un posto veramente, veramente unico. E grande spazio in rete la tua esperienza, trovate il link nella nostra pagina in Facebook dell'Altra Europa, abbiamo caricato anche dei video, anche perché stai diventando una sorta di punto di riferimento per gli italiani, ma non solo, proprio a livello europeo, ti vedono un po' come un guru della solitudine, diciamo. Sì, questo è vero, io sottolineo sempre questo aspetto, quando arrivi là ci sono due sentimenti contrastanti che subito provi: o un'incredibile attrazione, quindi rimani subito coinvolto, e invece proprio desideri di scappare subito, perché talmente la presenza della natura è così incombente, il silenzio sono veramente così assordanti che veramente spesso le persone non resistono e scappano via. Nel mio caso sono rimasta. Europost-it. I volti dell'Italia visti dagli stranieri. Questo è il tema del concorso fotografico I volti dell'Italia, persone, abitudini e tradizioni, organizzato dall'Erasmus Student Network. Tutti gli studenti stranieri dell'università dove è presente una sezione Erasmus possono mandare le proprie fotografie entro e non oltre il 29 ottobre. Le immagini devono rappresentare soggetti tipicamente italiani, o persone fisiche, o abitudini italiane o tradizioni. Le 45 foto che vinceranno il concorso saranno esposte a Roma dal 12 al 14 novembre all'interno dell'evento culturale Erasmus 2010. Il sito per partecipare è quello dell'Erasmus Student Network, esnitalia.org. L'altra Europa. Vi stiamo raccontando davvero un'altra Europa oggi, e lo facciamo insieme a Luisa Troianis, tour operator, così ti possiamo definire, sì, perché hai aperto un'attività in questo paese che si chiama? Aredalen, è la contea di Aredalen, il paese si chiama Tandalen. Ecco, ma per capire, tu abiti in una tua casetta? Sì, io sto in una casettina che sembra quella proprio delle fiabe, perché è una casetta rossa di legno, e la cosa bellissima di questo posto che adoro è che nella primavera è sopra i tetti e cresce l'erba fresca con tante orchidee. E quindi è meraviglioso, è bellissimo. Ed è una sorta di arca di Noè anche. Sì, è un'arca di Noè, perché specialmente il periodo dello scioglimento dei ghiacci, per cui la natura che fino per tanto tempo è rimasta imprigionata tra il ghiaccio esplode, si sente proprio questa esplosione. Io per esempio di notte a volte vengo proprio svegliata dal rumore di quest'acqua che vuole uscire dal ghiaccio, perché poi sto proprio a pochi metri da un enorme lago. Per cui si creano delle crepe enormi, che la cosa poi bella, ma anche inquietante allo stesso tempo, io a volte con Ginger, perché ho un husky siberiano che mi segue sempre, parte un sibilo dall'altra parte del lago, per cui tu senti, sei investito da un rumore fortissimo che ti viene incontro, quindi si vede che il cane arretra, e anch'io le prime volte che sentivo questo rumore, è un grande spavento, ma in realtà sono le bolle di aria, di acqua, che emergono da queste crepe di ghiaccio. Ecco, quindi questa vita in solitudine ai confini dell'Europa, sì, la domanda è larga, la domanda è curiosa, però che Europa vedi da là? Cosa respiri? Cosa capti di quello che accade nel resto del continente? Ma è una sensazione strana, veramente mi sento come sul tetto del mondo, veramente. Posso veramente avere una visione globale, purtroppo non sempre felice. E quello che mi preme dire è che noi spesso, no, parliamo dell'Italia, ci lamentiamo, eccetera, eccetera, però quando poi ti trovi all'estero, e quando poi ti trovi in una situazione particolare come la mia, ecco, la guardi con nostalgia sicuramente. C'è un programma bellissimo che volevo sottolineare, che si chiama Solnismot, che è un programma che fanno in Svezia una volta a settimana, e si chiama, e il titolo è Il cibo del sole. E si parla dell'Italia, si parla della gastronomia, e viene fatto in maniera divina. Io, guarda, ti giuro, non posso guardarlo perché mi metto a piangere. Ma e tu là sei conosciuta come l'italiana? L'italiana, sì, sì. Però mi vogliono bene, e poi ci sono persone che mi avvicinano, no? E tipo mi fanno in italiano burro? Perché magari è l'ultima parola che si ricordano di quando erano stati in vacanza, no? Quindi magari ti tirano fuori delle frasette in italiano, si guardano molto bene all'Italia. Tantissimi video, vi ripeto, caricati sul suo sito, li trovate nelle nostre pagine in Facebook dell'Altra Europa. Vuoi dare anche però il sito della Sì, il sito è www.redfoxadventure.com, e poi i miei video, ho un canale preferenziale in YouTube, e digitando Red Fox Adventure, tutto attaccato. Continuiamo a viaggiare per l'Europa, nel cuore dell'Europa, e lo facciamo con questa musica. Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria, Moldavia, Romania, Ucraina. Sono 10 gli stati toccati dal Danubio nel suo viaggio nel cuore dell'Europa. Danubio che in queste ore, in questi giorni, a rischio disastro ambientale, sembra che la situazione stia un po' rientrando, sembra che questi fanghi velenosi probabilmente riusciranno a arrivare minimamente all'interno del Danubio. C'è però ancora tanta preoccupazione. Abbiamo quindi invitato, per capire qual è il polso della situazione in diretta, una guida turistica per italiani a Budapest, che proprio in queste ore, credo in questi minuti, sia nei pressi del Danubio. E do il benvenuto a Nicolette Herzey. Ciao Nicolette. Ciao, salve, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, ciao, grazie. So che questa è un po' di musica, è il bello della diretta. Facciamo passare la sirena. Scusa per il casino, sto passando una macchina. Casino, tra l'altro, parola tipicamente italiana, questo vuol dire che la lingua la conosci molto bene. Dove hai imparato l'italiano, Nicolette? Io al liceo ho avuto delle professoresse e degli insegnanti fantastici, quindi al liceo fondamentalmente, poi ho studiato anche all'università. Uh-huh. E adesso fai la guida turistica, accompagni gli italiani in visita, sì, a Budapest. Sì, da 6 anni lavoro come guida turistica e da 1 anno lavoro per conto mio e organizzo gite, cose varie, tra cui anche la gita all'Ansa del Danubio, dove sto adesso con un gruppo di italiani di Bari. Quindi è una tappa obbligatoria. Facciamo normalmente una giornata a Budapest e un'altra all'Ansa del Danubio, perché è una zona bellissima. Ecco, quindi insomma sfruttiamo il fatto che tu sia lì proprio sul Danubio. Cosa sta accadendo in questi minuti? Cosa dicono le fonti informative? L'allarme è rientrato? Praticamente si dice che la situazione si stia normalizzando abbastanza. Ci sono un ruscello e un fiumicello vicino alla zona, proprio alla zona inquinata, che si sono praticamente danneggiati del tutto. Si dice che siano morti questi due fiumi. Grazie a questi due fiumi l'inquinamento non riesce ad arrivare al Danubio, anche se arriva praticamente queste sostanze chimiche sono state neutralizzate e quindi i valori pH non aumentano nel Danubio. Questo significa che il Danubio si è salvato. Certo, quindi un disastro ambientale comunque di grossissima entità, uno dei più gravi per l'Ungheria. E questi fiumi, questi affluenti del Danubio, ci vorranno anni per tornare allo stato precedente, a quello che è accaduto. Però per fortuna, da quello che si legge, e anche tu ce lo stai confermando, il Danubio dovrebbe essere salvo. Ci sono tracce? No, cioè tu non vedi niente di strano in questo momento nel Danubio? No, non si vede niente, anche perché l'acqua che arriva dall'affluente del Danubio, da questo affluente che si chiama Morsol, praticamente quell'acqua non è più inquinata, quindi non si vede niente. Stanno gettando del gesso e tante altre sostanze per fermare l'inquinamento, per fermare questo fango rosso. Ecco, la popolazione come ha reagito a quello che è successo in questi giorni? Al di là dell'allarme, c'è stata indignazione, c'è stata preoccupazione, c'è stata rabbia? Preoccupazione e rabbia, perché vogliamo sapere assolutamente di chi è la colpa di questo accaduto, perché ovviamente la fabbrica di alluminio dice che non c'è stato nessun errore umano, che probabilmente non è vero, perché insomma qualcuno avrà pure sbagliato, ma prima di tutto c'è un lutto nazionale, perché non so se sapete sono già morte 7 persone, in più c'è tutto il danno alla natura, quindi siamo scioccati, ma c'è una grandissima solidarietà a livello nazionale. Ognuno cerca di mandare soldi, vestiti, mobili, perché ci sono tantissime famiglie che hanno perso tutto. Quindi c'è, dopo il grande alluvione del Danubio di questa primavera, quando tutto il paese ha collaborato per aiutare i danneggiati dell'alluvione, di nuovo c'è una solidarietà che è molto importante, che collega praticamente tutta la nazione. Grazie davvero Nicolette, adesso ti facciamo fare un po' la guida turistica, però raccontaci cosa stai vedendo. Insomma, sei in uno dei luoghi più belli dell'Europa, perché la suggestione dell'Ansa del Danubio è fantastica. Cosa vedi e cosa fai vedere ai tuoi clienti? All'Anso del Danubio iniziamo sempre la visita ad Esztergom, che è la sede vescovile. Praticamente l'Ansa inizia da qui, perché il Danubio tra i due monti, il Pilice e il Börzsöny, forma una S, e questo ha creato una flora, fauna e un panorama eccezionale su lungo tutto il corso del Danubio. Quindi iniziamo qui e poi riscendiamo verso sud e andiamo a Visegrad, dal punto alto della fortezza medievale si vede l'Ansa benissimo, e poi finiamo a Sant'Andrea, dove finisce anche l'Ansa, che è una bellissima cittadina mediterranea. E come sono gli italiani come turisti? Cioè, sono curiosi, sono impazienti, sono difficili da accontentare? No, assolutamente no, perciò lavoro solamente con italiani, anche se parlo anche altre lingue, ma gli italiani sono molto facili da gestire, eccetto la questione della cucina, perché spesso c'è la domanda: ma la pasta non c'è? E tu dove li porti a mangiare, quelli più esigenti? Io li porto normalmente tutti negli stessi ristoranti e gli faccio assaggiare qualche zuppa tipica, che sarebbe quello, il primo piatto che da voi è la pasta. Poi faccio mangiare carne alla brace, che piace sempre, qualche dolce buono, faccio assaggiare i nostri vini, perché abbiamo anche dei vini ottimi. Quindi alla fine normalmente riesco ad accontentarli, anche se questa è la sfida più grande secondo me. Nicolette, ci vuoi dare il sito internet, perché magari fosse interessante appunto a una visita a Budapest con te? Certo, grazie per la possibilità. È www.guidenicoletta con la K, guidenicoletta.hu. Perfetto, metteremo il link nelle nostre pagine in Facebook. Ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie davvero per averci dedicato questi minuti. Ciao, buona giornata, buon sabato. Grazie a Nicoletta. Voi, ciao, buona ciao, giornata. Ciao, ciao. L'altra Europa. L'altra Europa è radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Ci trovate anche in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure via sms se volete contattarci in diretta, 349-238-6666. Con me oggi in studio Luisa Troianis, vive in Lapponia, fa la tour operator, insomma un'esperienza di vita, prima che un'esperienza professionale. Luisa, raccontaci un po', però, sempre dal tuo punto di vista, questi svedesi. Come sono? Allora, gli svedesi, dunque, gli svedesi sì, sono molto riservati, quindi è difficile entrare nel loro gruppo. E io particolarmente non ho, diciamo, grandi rapporti, se non quando mi invitano magari a dei party, e quindi vado volentieri anche per cercare di integrarmi e di fare anche amicizia. E però sono buffissimi. Tu considera che lì i ragazzi, perché vengono lì a fare la stagione, no? Perché lavorano negli alberghi, nelle zone limitrofi, quindi hanno una fascia di età che ti posso dire tra i 18 e i 30 anni. E il loro problema qual è? Che tu dalle 9 a mezzanotte non riesci quasi a parlare con loro, perché le ragazze stanno da una parte, sai, un po' come le scimmiette. Si fanno le trecce ai capelli, si massaggiano il collo, si guardano allo specchio e si guardano come sono. Cioè, che, tutto così. Che immagine triste che ci stai dando. È così. Sono bellissime, perché devo dire, sono bellissime, ma si spulcettano, insomma, non ti so. E invece i maschi si mettono da una parte e guardano magari qualche film banale, mangiano patate fritte e poi si divertono anche con cose molto semplici, tipo una bottiglia di ketchup. Non so se ti è mai capitato, no? Il tappo a volte non esce, no? Perché si chiude, e quindi magari lo strizzano e esce, schizza da tutte le parti questo ketchup, e ridono come pazzi per un'ora. È una cosa, e quindi è molto frustrante. Dopo però una cosa bella, a mezzanotte, quando sono un po' ubriachi, chiamano i taxi per andare ai pub, sì, e ubriacarsi ancora, poi chiamano il taxi. Anche quindi, se c'è una parola che, insomma, ne abbiamo già parlato anche qui all'Altra Europa, che è solitudine, ma ci torneremo a parlare di solitudine, sì, perché sì, credo sì, che sia una dimensione che anche tu vivi quotidianamente. Ci spostiamo dai confini dell'Europa e andiamo a Bruxelles. Well, I believe that the Euronet is a very good example on how things should be done, because you cannot simply go top down, Brussels says, and everybody is 500 million are listening. No, you have to bring the message grassroots. I hear that the students are in the parliament. That's wonderful, because your radios. Lei è Viviane Reding, vicepresidente della Commissione Europea e commissario europeo incaricato di giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza, e sta parlando di Euronet come un esempio di quello che dovrebbe essere fatto a Bruxelles. Ne ha parlato nel convegno che è stato organizzato dalla rete Euronet in questi giorni. Come l'Europa affronta la crisi, tantissimi giornalisti, tantissimi studenti, tantissimi ospiti di prestigio si sono confrontati, e là a Bruxelles per noi c'era Sergio Nava, e questo è un frammento del suo reportage. Sergio Nava, all'Altra Europa. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati da Bruxelles per il dibattito organizzato da Euronet, il circuito di radio europee del quale fa parte anche Radio 24. Un'Europa che invecchia, il nostro continente ha bisogno di più immigrazione per mantenere competitiva la propria economia. Questo è il tema che farà da sfondo ai prossimi minuti di discussione e confronto. Intanto do il benvenuto a Mario Mauro, già vicepresidente dell'Europarlamento, membro del Partito Popolare Europeo e capogruppo del PDL a Strasburgo. Buongiorno. Buongiorno. E a Sergio Cofferati, già leader della CGIL, ora eurodeputato per il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici e membro della Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali. Buongiorno. Buongiorno. Per cominciare ascoltiamo subito però cosa ne pensa la gente. Queste le interviste che abbiamo registrato a Milano. La domanda: serve più immigrazione per l'economia europea? Queste le risposte. Credo di sì, dipende anche un po' dal settore, credo che possa fare bene. Non penso che l'Europa abbia bisogno di stranieri per la propria economia, ci sono già tanti abitanti nazione per nazione, basta sfruttare quelli che si hanno. Secondo me no, poi non sono un razzista, però l'immigrazione non credo che sia positiva al 100%. Sicuramente una buona parte abbiamo bisogno, ma non un'invasione. Mi associo al suo pensiero, guarda. Sono d'accordo anche io con lui. Cioè che non c'è bisogno di questa invasione. Sicuramente una cosa controllata può essere buona, purtroppo qui non abbiamo la manovalanza povera, che purtroppo non lo vuole far più nessuno, quindi sicuramente servirà. Però certo, deve essere sempre una cosa controllata. Sì, credo di sì, credo che abbia bisogno di immigrati per mantenere viva sia la sua economia, sia per rialzare la tendenza delle nascite. L'economia si basa anche sui consumatori, quindi se c'è più produzione deve esserci anche più consumo, se c'è più consumo c'è più produzione, quindi su questo si basa la nostra economia, quindi probabilmente c'è bisogno. Queste le voci raccolte a Milano, voci per lo più, come avete ascoltato, scettiche. Il tema dell'immigrazione, soprattutto in tempi di crisi, resta dunque controverso. Il flusso di immigrati, diamo una cifra, illegali verso l'Unione, secondo recentissime statistiche di Frontex, l'Agenzia Comunitaria per la Sorveglianza delle Frontiere, è calato nel primo semestre 2010 del 23,6%. La crisi finanziaria e i cambiamenti nel mercato del lavoro sono tra le cause di questo declino, secondo Frontex. E giro subito dunque la domanda agli onorevoli Mauro e Cofferati. L'Europa ha bisogno di più immigrati per mantenere competitiva la propria economia anche alla luce del calo demografico? Onorevole Mauro. Credo che sia importante non fare confusione. L'Europa è un continente di vecchi. Questo vuol dire che l'Europa ha bisogno di giovani, non necessariamente di giovani immigrati. Cosa vuol dire che ha bisogno di giovani? Intanto guardiamole le cifre. Noi abbiamo 75 milioni di persone che hanno meno di 25 anni nei 27 paesi dell'Unione Europea. Possono apparire una gran cifra, però un paese come la Turchia, che ha 70 milioni di abitanti, o un paese come l'Egitto, che ha 80 milioni di abitanti, da solo ognuno di questi paesi ha più di metà dei giovani dell'intera Unione Europea. Quindi l'Europa è fatta di vecchi. Il secondo dato che ci deve far riflettere, però, è quello legato alle nostre politiche di welfare. Cioè, fatto 100 la spesa in welfare, meno del 2% in alcuni paesi, massimo il 7%, viene speso per la famiglia. Quindi l'Europa ha innanzitutto bisogno di politiche familiari volte a valorizzare il ruolo dei giovani ed aprire spazi ai giovani. Detto questo, il tema dell'immigrazione fa da complemento a un percorso di integrazione che deve garantire il futuro di una generazione. Onorevole Cofferati. Sì, perché l'Europa ha subito gli effetti di un calo demografico molto forte. Il calo demografico è alle nostre spalle. È già avvenuto che molti cittadini europei abbiano fatto meno figli delle generazioni che li hanno preceduti. Dunque noi abbiamo un vuoto da riempire. L'Europa non riuscirà in alcun modo a mantenere il suo livello di ricchezza e la sua struttura economica se non avrà il contributo attivo di milioni di persone che non sono nate in Europa e che si spera verranno in Europa a lavorare, a vivere con noi. Parlo ovviamente di processi legittimi dal punto di vista sociale e poi regolare dal punto di vista del rispetto delle leggi di tutti i paesi dell'Unione e di quelle complessive dell'Unione. Però noi abbiamo bisogno di loro, così come è capitato in Italia per almeno 3 decenni. Il numero di stranieri che è arrivato in Italia è stato molto consistente, senza di loro l'economia italiana avrebbe subito una flessione molto pesante. Pochi la conoscono, ma nel maggio 2009 è stata approvata in Europa la direttiva sulla carta blu, una carta che consente un permesso di soggiorno per lavoratori stranieri altamente qualificati, una specie di green card americana. L'Assemblea nazionale francese l'ha approvata e trasposta nella legislazione lo scorso 1 ottobre. A che punto siamo in Italia e nel resto d'Europa? Ma soprattutto, questa carta blu può costituire una soluzione nella competizione mondiale per l'attrazione di cervelli? Ricordiamo come in Europa solo il 5% degli immigrati siano altamente qualificati contro il 55% degli Stati Uniti. Onorevole Cofferati. La carta blu è un'ottima soluzione, introduce elementi di novità e dà un vantaggio ai paesi europei per quanto riguarda però una fascia ben precisa di lavoratori. Sono lavoratori ad alta professionalità, dei quali abbiamo bisogno, poi bisogna sviluppare anche le professionalità che qui già esistono, ma il contributo che può venire dall'esterno è di grande interesse. Il problema invece risolto è quello che riguarda la manodopera a bassa professionalità, diciamo il lavoro generico. Non sappiamo ancora se saremo in grado di presentare un'ipotesi di direttiva che dovrà occuparsi del lavoro stagionale degli immigrati nei paesi europei, perché ci sono contrarietà da parte di alcuni parlamenti europei a che l'Unione si occupi di questi temi. Io penso che invece una soluzione normativa che valga per tutti i paesi europei sarebbe molto importante, complessa, delicata, ma utilissima, almeno quanto la carta blu. Onorevole Mauro. Guardi, il tema della carta blu ci aiuta più di altri a capire quanta ideologia ci sia intorno al dibattito sull'immigrazione. Nel senso che, da un lato diciamo, abbiamo bisogno di più immigrati e al contempo constatiamo che molti di questi immigrati che già abbiamo sono senza lavoro. Quindi il problema non è che ce ne siano tanti o pochi, ma il grado di qualificazione e il grado di corrispondenza con le esigenze del mercato del lavoro che si manifestano nei vari paesi. La carta blu è uno strumento che aiuta a fare strategia e a trovare soluzioni a questo livello, per questo è uno strumento che favorisce la competitività. Io credo quindi che puntando sulla trasposizione dello strumento carta blu noi aiutiamo in qualche modo il dibattito a venire fuori dal livello ideologico e a darci anche dei numeri più concreti, perché in concreto il problema non è avere milioni di persone, ma che ognuna di queste, trovando la propria vocazione, vada al posto giusto. Se mancheremo questo appuntamento, sarà come al tempo delle grandi soluzioni per il Mezzogiorno, tante cattedrali nel deserto che poi hanno lasciato tanti disoccupati. Europost-it. Il grande autunno di Monet. Anzi, il più grande. Sì, perché quella che si è aperta pochi giorni fa a Parigi è la più grande retrospettiva mai realizzata negli ultimi 30 anni sul maestro dell'impressionismo francese. Dal 22 settembre al Grand Palais si possono ammirare infatti 170 tele del grande maestro, tra le quali capolavori come le Ninfee, la colazione sull'erba, la cattedrale di Rouen e tanti altri celebri dipinti. Sono almeno 5.000 i visitatori attesi per l'esposizione, che resterà aperta fino al 24 gennaio 2011. L'altra Europa. È un'altra Europa quella che vi vogliamo raccontare, l'Europa di Bruxelles, che è anche sede di dibattiti e incontri, come abbiamo ascoltato poco fa, ma è anche l'Europa del Palazzo del Consiglio a Strasburgo, per esempio, dove giovedì 7 ottobre si è svolto un concerto per la pace, si è esibita per la prima volta l'Orchestra Europea per la Pace con un concerto dal titolo Rom Drom, viaggio concerto della musica Rom, i Rom, per far ascoltare la loro loro cultura nel cuore dell'Europa, e con loro c'era il direttore d'orchestra, il nostro amico Santino Spinelli, in arte Alexian. Ciao Alexian! Ciao. A tutti voi. E il direttore d'orchestra è veramente Luciano Di Giandomenico, io ero il musicista interprete del concerto, diciamo. Alexian, hai portato la musica rom nel cuore dell'Europa, ce l'hai fatta, un sogno che coltivavi da tempo, e credo sia stata una soddisfazione immensa. Ma non solo una soddisfazione immensa, ma soprattutto il messaggio che è uscito fuori, l'amore, di fratellanza per un'Europa unita, solidale, senza discriminazioni. E questa orchestra straordinaria, formata da musicisti provenienti da tutta Europa, è diretta magistralmente dal direttore d'orchestra, il maestro Luciano Di Giandomenico. Un'emozione immensa che ha ha avuto il suo successo, visto che decine e decine di proposte da tutta Europa sono immediatamente arrivate per portare questo messaggio, ripeto, d'amore, di fratellanza in tutta Europa, perché c'è necessità oggi di questo messaggio. E i musicisti provenienti da estrazioni sociali, culturali, linguistiche diverse hanno dimostrato come si può essere uniti, solidari e promuovere una seria integrazione. Ecco, i musicisti evidentemente sono un po' più avanti rispetto alla realtà ci vede purtroppo in condizioni difficili oggi. Alexian, insomma, ti ho chiamato che eri proprio in viaggio per Strasburgo, su questo pullman vi siete anche divertiti, credo sia stata veramente una festa anche per voi. Ma abbiamo cantato e suonato tutto il tempo, quindi è stata un'esperienza umana, culturale, ma veramente qualcosa di emozionante. Tutti i partecipanti, ancora fino a stamani, mi hanno chiamato per ribadire che hanno vissuto un sogno meraviglioso. Ma questo sogno continuerà, visto tutte le proposte che abbiamo avuto, ripeto, da tutta Europa. E molti europarlamentari si sono avvicinati per complimentarsi e per sostenere l'iniziativa che ha questo grande messaggio, ripeto, che porta in sé quella della pace, dell'amore e della fratellanza. E oggi, come non mai, c'è bisogno di questo messaggio, e a noi, ecco, è stato dato l'occasione, l'opportunità di poterlo divulgare. Continueremo questo viaggio a Lanciano in prima nazionale al Teatro Fenaroli il 6 di novembre, sì, e il 18 di novembre al Parlamento Europeo a Bruxelles. E lì, insomma, farete sentire la vostra voce. Ma tra l'altro il 12 ottobre invece a Bucarest, in Romania, si tiene la conferenza dell'Unione Europea dedicata ai programmi di aiuto ai Rom. Insomma, per fortuna se ne sta parlando, per fortuna si stanno facendo cose concrete, sia dal punto di vista degli interventi per gli aiuti, ma anche dal punto di vista culturale. E insomma, è quello che state facendo voi, è importantissimo. Sicuramente, ma l'integrazione passa attraverso la valorizzazione culturale. Senza questa valorizzazione è impossibile procedere a una seria politica di integrazione, e la musica ha un ruolo fondamentale nella cultura romanì, visto che è riuscita a conservare e a trasmettere la romanipè, l'identità romanì, attraverso secoli e secoli. Alexian, il tuo sito per tutte le informazioni? www.alexia.it, e poi c'è Tem Romano, progetto orchestra. Perfetto, buona musica. Ciao Alexian, grazie. A voi e un saluto caloroso in lingua romani. Bud Bach, Tasa Stipe. Fantastico, ciao. Altre e altre voci dal popolo nomade sono i Sami, tra i quali vive e convive, insomma, la nostra ospite di oggi in studio con me, Luisa Troianis, fa la tour operator in Lapponia, ma non è la Lapponia di Babbo Natale, vero? No. Quella che proponi tu, è un'altra Lapponia. No, è un'altra Lapponia, è una Lapponia più intima, direi, più discreta. È una Lapponia più vera, lontano dai circuiti di massa, turistici di massa, e più intima, perché appunto c'è questa sorta di attrazione che tu provi per questi posti e che poi mi ha anche convinta a rimanere là. Un'attrazione che si può facilmente percepire davanti a un'aurora boreale, il che non è una frase fatta, ma non è all'ordine del giorno, perché sono fenomeni, fortunatamente dico io, che non si possono prevedere, ma quando veramente accadono è lì. tu organizzi i pacchetti di fatto personalizzati, sì, no? Sì, personalizzati, perché appunto voglio, mi piace anche qui sottolineare e cogliere appunto questa occasione importante per dire che sono dei sogni bellissimi e facilmente realizzabili, cioè voglio dire, non è un posto, cioè sembra così agli antipodi della Lapponia, ma è facilmente raggiungibile. Sulla carta sì, però... voglio dire, sì, è lì, c'è. È lì, quindi insomma è quasi, diciamo quasi a portata di mano. È lì, insomma, tu organizzi vari pacchetti, sì. Estate o inverno, quando è meglio? Ma senti, infatti questa è la domanda che mi chiedono tutti effettivamente, è difficile dire, perché sta la singola persona a capire la stagione. Vabbè, d'inverno è freddo. Non saprei perché... Non fa freddo? Freddissimo, che non puoi uscire. Dunque, allora, quest'anno, se devo dire il vero, ha fatto punte di meno 40, però mi risulta che anche in Italia è lo stesso. Ma è un freddo particolare, un freddo secco. Io spesso vado fuori in t-shirt, non ti dico meno 40, No, meno 40 no. Ma a meno 5, meno 8 vado fuori a maniche corte. Quindi voglio dire... Anche per l'attività stessa che io faccio, sci di fondo e accumuli molto calore, quindi hai bisogno sempre comunque di vestirti molto leggero e comunque sempre a strati. Anche se ricevi tantissime lettere anche di persone che non solo vogliono andare lì per fare i turisti, ma vogliono cambiare vita, e l'abbiamo ripetuto, stai diventando una sorta di guru del nord Europa, e affascina molto questa cosa, il battesimo della solitudine. Che cos'è? Sì, appunto, sì, ho coniato questo termine perché credo che veramente rappresenti l'essenza di questo luogo. È un battesimo della solitudine, perché è un po' come avviene con il deserto. Non so se mai sei stato in deserto, no? C'è questa sensazione di queste dune, no? Bellissime, questo per cui sembra comunque un rinascere, un morire e rinascere nuovi, una specie di rito di iniziazione che si perpetua e secondo me si può facilmente adattare anche nella Lapponia, perché veramente come un'immersione nel nulla, tra virgolette, per poi riemergere comunque nuovi e diversi. Molte persone che sono venute poi veramente tornano un po' diverse a casa, ma nel senso, insomma, di arricchimento emozionale, livello dell'emozione, sì. E Luisa, dopo di noi il GR, poi Davide Paolini con le Gastronauta. Non so, hai mai fatto, è dall'altra parte del vetro, hai mai fatto qualcosa sulla cucina lappone? No, non, ok, gli manca Davide la cucina lappone. C'è un piatto tipico che vuoi consigliare, che conosci? Patate e trota salmonata. Patate lesse, no, ma perché io ho proprio un affumicatoio vicino casa, e io infatti pesco con il cucchiaino, la mattina mi alzo, vado a pesca, prendo la trota e poi la metto in questo affumicatoio e deve stare più o meno 4 ore e c'ha una specie di comignolo, esce una specie di fumata, è come un po' quando le lezioni del Papa, no? Se c'è la fumata bianca e vuol dire che il pesce è cotto, se è grigia significa che ancora va girato e quindi deve stare un po' lì. Quindi salmone e cappuccino, trota e cappuccino trota a colazione. E cappuccino a colazione. Allora ricordo che potete trovare tutti i link relativi all'attività di Luisa Troianis sulle pagine di Facebook dell'Altra Europa, oppure ricordiamo il tuo sito? www.redfoxadventure.com. Ricordo che la versione in italiano è solo in piccola parte, quindi è purtroppo ancora in inglese, ma presto sarà anche in italiano. Ciao, buon ritorno in Lapponia. Grazie a te Federico, a tutti. Grazie a Margherita Ina e a Alba Rondelli che come hanno preparato la puntata. L'Altra Europa è radio24.it, e se volete farvi video, un grazie a Peter Bescapè alla parte tecnica. Ancora ciao da Federico Taddia.